Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questo 23 gennaio, giovedì. Di Maio lasci 5 Stelle, un terremoto nella politica italiana con riverberi evidentemente anche sul governo. Mentre si avvicinano le elezioni regionali emiliano-romagnole, Salvini citofona alle famiglie, dimostrandoci subito qual è il suo concetto di libertà se va a governare. Detto questo, subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Bullets, giovedì 23 gennaio 2020. I titoli di oggi. Australia, si schianta un aereo antincendio e caccia l'uomo a Seattle. Export in crisi in Giappone. Harry e Meghan a volte ritornano. In Nigeria torna la febbre di Lassa. Queste e molte altre notizie nel podcast quotidiano di Notizie dagli Esteri di Radio Bullets. Io sono Angela Gennaro. È di pochi minuti fa la notizia di un aereo antincendio precipitato in Australia. Nello schianto sarebbero morte 3 persone, si tratta di cittadini statunitensi, lo riporta l'agenzia AFP citando fonti di autorità locali. Restano incerte le cause dello schianto. L'aereo era scomparso dai radar da qualche ora. È di proprietà della società canadese Coulson Aviation, impegnata nel Nuovo Galles del Sud, nella lotta contro gli incendi che stanno devastando il paese. Stati Uniti, e caccia all'uomo a Seattle, dove la polizia sta cercando l'aggressore che avrebbe agito da solo e ha aperto il fuoco in queste ore sulla folla, uccidendo una persona e ferendone altre. Alcune testate parlano di 5 persone, altre di 8, citando fonti istituzionali. A sparare, dice ancora la stampa locale, sarebbe stato un uomo vestito di nero che si sarebbe poi dato alla fuga a piedi. Sempre negli Stati Uniti si chiude la seconda giornata del processo in Senato per l'impeachment di Donald Trump. I democratici hanno cominciato a presentare le motivazioni sulla base delle quali hanno presentato la loro richiesta di impeachment e di incriminare il presidente Trump e di rimuoverlo dalla Casa Bianca. Dopo di loro sarà la volta per 3 giorni della difesa del presidente. Stai ascoltando Radio Bullets. E Meghan e Harry continuano a campeggiare sulle pagine dei giornali di tutto il mondo. Più di 80.000 persone in Canada hanno aderito a una raccolta firme online per chiedere al principe e alla moglie, freschi di rinuncia del titolo reale, di farsi carico delle spese di sicurezza, delle proprie spese di sicurezza durante la loro permanenza in Canada. I canadesi sono felici di dare il benvenuto al duca e alla duchessa in Canada, ma hanno detto chiaramente che i contribuenti non dovranno essere costretti a sostenerli, spiega Aaron Woodrick, il presidente della Canadian Taxpayer Federation, che è poi l'associazione che ha promosso la petizione online. Tutti i canadesi augurano ai duchi di poter realizzare la loro ambizione di diventare finanziariamente indipendenti, ma come dire, sulle loro gambe possibilmente. La coppia fu reale, nel frattempo, diventa anche un cartone animato. I duchi di Sussex sono tra i personaggi, infatti, di The Prince, che è una serie targata HBO, nuovo progetto di Gary Janetti, che è il creatore dei Griffin. Il protagonista del cartone animato della serie è il principe George, il figlio maggiore di William e Kate. Stai ascoltando Radio Bullets. L'export giapponese sta risentendo della frenata dell'economia cinese, del rallentamento del settore auto e del suo indotto. Per la prima volta ha registrato un calo del 5,6% per l'intero 2019. Le prospettive restano instabili, ma un effetto positivo sull'export potrebbe arrivare dalla stabilizzazione dell'economia cinese e naturalmente da un accordo sui dazi tra Pechino e Washington. Cina e coronavirus. Nell'aeroporto romano di Fiumicino 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan epicentro del focolaio del virus simile alla SARS, sono transitati in un canale sanitario dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri in arrivo. Ai passeggeri del volo di linea diretto della China Southern Airlines CZ645, atterrato questa mattina alle 4.50 all'aeroporto Leonardo da Vinci, sono state applicate le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio, quindi controllo della temperatura attraverso appositi scanner. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Boliviani, ma anche argentini, erano almeno in 30.000 a salutare ieri pomeriggio l'ex presidente della Bolivia Evo Morales, nel giorno in cui, celebrando la giornata dello Stato plurinazionale, ha parlato del bilancio di 14 anni di guida del paese. Abbiamo dimostrato che senza il capitalismo è possibile un nuovo mondo, una nuova Bolivia, ha detto Morales, parlando nell'affollatissimo stadio del Deportivo Espanyol di Buenos Aires. Senza il Fondo Monetario Internazionale è possibile avere una Bolivia degna e sovrana, si dice convinto Morales. Con lui c'era anche Luis Arce, candidato presidente per il movimento al socialismo, il MAS, alle prossime elezioni del 3 maggio. So che Bolivia, Argentina e Cile hanno grandi giacimenti di litio e il mio sogno è che possiamo iniziarne lo sfruttamento insieme e far sì che fra alcuni anni saremmo noi a poter decidere il suo prezzo sul mercato internazionale, ha detto ancora Morales. Alle prossime elezioni il MAS, dice, potrà riconquistare la democrazia e il governo, non con le armi come la destra, non con le pallottole come i razzisti e i fascisti. Stai ascoltando Radio Bullets. E l'Algeria ospiterà domani una riunione dei ministri degli esteri dei paesi vicini della Libia. I ministri degli esteri dei paesi limitrofi appunto alla Libia si riuniranno domani ad Algeri nell'ambito degli sforzi per una soluzione politica della crisi. A partecipare all'incontro, organizzato, spiega una nota ufficiale su iniziativa dell'Algeria, saranno i ministri degli affari esteri dei paesi vicini alla Libia, con la partecipazione quindi di Tunisia, Egitto, Sudan, Chad e Niger, dice il Ministero degli Esteri algerino, aggiungendo che poi parteciperà anche il Mali. Almeno 4 persone sono morte dopo aver contratto il virus della febbre di Lassa nello stato di Kano, nel nord della Nigeria. A riportarlo è l'agenzia Nova, citando media locali e autorità sanitarie. Fra i pazienti ci sarebbero anche 2 componenti del personale medico che avevano operato una persona infetta. Il commissario alla salute nigeriano Aminu Tsaniawa ha dichiarato che 292 persone sono state messe in quarantena e stanno quindi ricevendo le cure. La febbre di Lassa è una malattia emorragica virale acuta che in genere infetta l'uomo attraverso l'esposizione a cibo o a oggetti domestici contaminati con l'urino o con le feci di ratti infetti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ricorda ancora l'agenzia Nova, al momento non esiste un vaccino autorizzato per la cura di questo virus. Il Ruanda e i paesi limitrofi nella regione dei Grandi Laghi in Africa rischiano di vedere un aggravarsi delle proteste, dice un rapporto dell'International Crisis Group, se i diversi paesi continueranno ad appoggiare le forze ribelli rivali per destabilizzarsi a vicenda. Lo dice Bloomberg. Dozzine di persone sono morte lo scorso anno in attacchi transfrontalieri che hanno coinvolto i 4 paesi vicini, i cui leader si sono incolpati a vicenda per aver appoggiato i ribelli, spiega ancora il report. Esiste il rischio reale che la crescente tensione alimenterà una più ampia crisi di sicurezza regionale, spiega il documento curato dall'International Crisis Group. Il presidente ruandese, Paul Kagame, ha affermato che l'Uganda e il Burundi tengono i ribelli contrari al suo governo e che hanno incrementato la presenza militare lungo i confini del suo paese dopo le recenti incursioni armate dall'est del Congo e del Burundi. Il Ruanda a sua volta è accusato dal Burundi di sostenere ribelli nel suo territorio. L'Uganda avrebbe rafforzato invece la presenza militare lungo il confine con il Congo per controllare i combattimenti che siano sostenuti da Ruanda, dice ancora il documento. Una bella matassa certamente da sbrogliare. E restiamo ancora in Ruanda, dove dopo anni di speculazioni sui destini dei locali dello stabile precedentemente occupato dalla prigione di Nyarugenge, chiamata con il suo anno di nascita, la conoscono tutti come 1930, la proprietà ora sembra destinata a ospitare quella che potrebbe essere la più grande cattedrale cattolica del paese. Situata nel Central Business District di Kigali, la struttura è uno degli edifici più antichi di Kigali, appunto, e con i suoi 90 anni tra le prigioni più antiche del paese. La Cattedrale Cattolica di Kigali, che è anche la sede dell'arcidiocesi, è attualmente nella chiesa di San Michael a Kiyuvo, che è vecchia e relativamente piccola. L'ultimo gruppo di detenuti della prigione del 1930 è stato trasferito dalla storica prigione alla nuova struttura correttiva di Mageragere nel luglio del 2018. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. E anche per oggi con il notiziario di Radio Bullets è tutto. Non perdetevi le nostre rubriche e tutti gli aggiornamenti quotidiani sul nostro sito. Io vi do appuntamento come al solito la prossima settimana e vi ricordo che potete sempre partecipare al nostro progetto di giornalismo indipendente andando su radiobullets.com/sostienici. Memory. Alison Fire, Brian Auger, Julie Driscoll, ma veniamo invece alla Fiera di Bologna, perché ancora nuove prospettive di privatizzazione a Bologna. In questa fiera lo denuncia SGB, che spiega come in questi mesi l'azienda stia facendo tutto per diminuire i lavoratori anche grazie a buone uscite e quindi procedere di fatto alla privatizzazione. Ne abbiamo parlato con Rossella Chirizzi proprio di SGB. Ma la questione della privatizzazione in sé è una questione molto vecchia che viene ripetutamente riproposta. Spesso improvvisamente leggiamo sui giornali tutta questa necessità di privatizzare il più presto. In realtà, come ben dice il presidente attuale del Bologna Fiere, purtroppo già avendo modificato gli statuti sia la regione che il comune ha già una decisionalità molto spostata sul privato, però avendo la maggioranza di soci pubblici le azioni deve dare conto ai soci, se fossero privati dovrebbe dare conto ai soci privati, siccome la maggioranza è pubblica deve dare conto al pubblico. Quindi di fatto noi la vediamo come un tentativo di scippare definitivamente alla città, alla fiera, questa diciamo risorsa cittadina e comune. Voi state denunciando anche degli incentivi dati ai dipendenti per andarsene fondamentalmente. Sì, questo diciamo che è da un anno, adesso a gennaio stiamo facendo proprio un anno di inizio di trattativa per bloccare teoricamente degli incentivi, perché di fatto la fiera non ha mai smesso il progetto diciamo di ristrutturazione con il licenziamento dei 123, l'ha dovuto bloccare, ma in realtà ha cambiato strategia, nel senso che sta incentivando le persone ad andare via, ci ha praticamente investito 2.300.000 euro, ha chiesto per 13 persone l'isopensione, che è una cosa che deve accettare l'INPS, quindi comunque sta creando le condizioni affinché il personale diventi sempre meno, quello che rimane lo sta attrezzando fino all'osso. Infatti denunciamo anche molte difficoltà nelle condizioni di lavoro, peggioramenti nelle condizioni di lavoro dall'accordo che fu fatto lo scorso giugno ad adesso. Voi sul bilancio poi di Bologna Fiere dite anche gli utili vadano investiti nel sociale. Sì, noi ovviamente ci teniamo e siamo contro la privatizzazione, che questo ex ente pubblico rimanga una risorsa pubblica. Nel momento in cui ha queste grandi utili, che il comune e le regioni, cioè chi ha questo compito, dia questi input, cioè reinvesta nel sociale, reinvesta nel territorio. Di fatto invece qui si vedono dei grandi utili, anche un progetto diciamo di espansione edilizia, come hanno annunciato, molto ampio, dove i politici sia regionali che comunali plaudono, però in realtà la ricaduta sul territorio pare inesistente. Noi la vediamo dai lavoratori in fiera, che appunto peggiorano le condizioni, aumentano i precari. Su questo insomma vogliamo dire che comunque i precari, che sono considerati stagionali, hanno intentato una causa, perché a livello sindacale non si trova una quadra per far assumere un precario, precari che sono da 10, 20 e anche 30 anni. Ma se l'azienda ha degli utili, perché i soci pubblici così si arrendono alla privatizzazione? Non gli fa comodo avere appunto anche delle entrate? Sì, teoricamente sì. No, vabbè, ma le entrate ce l'avrebbero lo stesso anche se fossero di minoranza. Se fossero invece che il 51 e il 49% avrebbero un po' meno entrate, ma ce l'avrebbero lo stesso. Non avrebbero più il potere che hanno adesso. Quindi si arrenderebbero a un'organizzazione privatistica e anche molto rampante, direi, un capitalismo molto agguerrito, per come vengono poi dopo le ricadute sui lavoratori. Oggi c'è un'assemblea dei lavoratori, si deciderà anche forme di mobilitazione. Ovviamente ci parleremo, perché purtroppo sono mesi che le cose appunto vanno peggiorando, ma non si è riusciti a discutere di questo. Parleremo di tutte le problematiche che ci sono, che sono proprio specifiche del lavoro, e vedremo insomma i lavoratori cosa intendono fare. Ovvio, ne discutiamo con loro, se sono intenzionati a fare iniziative noi le proporremo. Comunque c'è Arte Fiera, c'è la possibilità insomma di fare degli scioperi per evidenziare le problematiche che stanno vivendo, che di fatto sta rimanendo un po' tutto diciamo chiuso all'interno dell'azienda. Si fa fatica diciamo a far uscire fuori le problematiche, perché i lavoratori sono molto vessati, sono pochi, sono sotto organico. L'azienda ormai ha chiuso l'accordo con gli altri sindacati a giugno e da lì è partito la conferma del smantellamento della situazione lavorativa sempre peggio. Una cosa per tutte, per esempio la Virtus, hanno fatto un accordo, praticamente hanno subaffittato lo spazio. Nel contratto aziendale è previsto che qualsiasi cosa si faccia in fiera ci siano i lavoratori della fiera, mentre per la Virtus non c'è neanche un lavoratore della fiera, è tutto gestito dalla Virtus e la fiera ha subaffittato. Se questo è il futuro di quell'azienda, queste sono le ricadute, cioè solo, diciamo, ingrassare le casse, ma non ci sono ricadute positive sul lavoro buono. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. The man within, you see behind the eyes of other men. You've lived and died and come to life again, and now you're standing alone at the crossroads of your mind. You've left your yesterdays behind, but which road leads you to tomorrow? Turned your back on yesterday, betrayed a man who swore he'd make you pay. For when you left, you took his pride away. You know he'll never let you break away so easily. You'll have to fight before you're free. But how much more time can you borrow? Now in a single moment your past grows dim. One thought goes racing across your mind. You ride to meet the woman you stole from him. Oh no, Charo, don't go. Charo, don't go. There's something hanging in the wind. Your past is catching up and closing in. You've been halfway to hell and back again. And now you'd laugh in the devil's face with your last breath. You'd run a race with life and death. But will you live to see tomorrow? Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Sì, chi è? Pronto, buongiorno, abita qui uno spacciatore? Sì, infatti voto Lega. Citofono! Togli la mano dal citofono! Chi è? E infatti Radio Città Fujiko, buongiorno signore, non ci stupisce questo endorsement per la Lega di uno spacciatore, perché naturalmente chi ha una politica proibizionista, per esempio chi chiude negozi di cannabis, è chiaro che aiuta chi spaccia nella clandestinità. Comunque Questo è il tema che riguarda le ultime giornate, non di Narnia, ma della campagna elettorale in Emilia Romagna. Salvini, il citofonista, incendia il pilastro. La Tunisia dice, dice razzista. Giovanni Stinco, da Bologna e dal Manifesto. L'obiettivo dello show mediatico è un 17enne che ora gli fa causa. Domani sera le associazioni di quartiere bolognese sono in corteo. Il ragazzo, nato in Italia, risponde al leader leghista. Io non sono uno spacciatore, gioco a calcio, tra pochi mesi divento padre. Salvini deve levare quel video dal rete. E devo dire che anche se fosse la casa di uno spacciatore, non nulla toglie il fatto che un normale cittadino, qualsiasi come Salvini, vada lì e lo metta alla gogna. Questo è quanto. Ed è una concezione della libertà che ci dimostra, se questo personaggio diventasse mai presidente del Consiglio, cosa intende una faccia, una razza. Non ho mai spacciato, ora Salvini chieda scusa. Il ragazzo è venuto sotto accusa al pilastro, dice Carlino di Bologna. Sono solo un calciatore. Sulla soffiata della Biagini ha detto falsità. La Biagini, questa anziana signora un po' megera, chiaramente leghista, che ha individuato il presunto spacciatore, ha indicato il citofono a Salvini. Pronto la causa per danni. Ora tutti mi guarderanno con occhi diversi. La signora ha le foto, le mostri subito. E allora arriva anche da Tunisi, ed è il Fatto Quotidiano che racconta: Tunisi protesta, vergogna razzista, una provocazione. L'ambasciatore scrive, il vicepresidente del Parlamento attacca il capitano, i nostri in Italia gli pagano lo stipendio. Naturalmente pensiamo che quando Salvini fa queste cose, dice quelle cose che ha detto sui soldati in Iraq, pensate se lo dicesse o da Presidente del Consiglio o da Ministro dell'Interno, quanto aumenterebbe la gravità istituzionale di questa cosa. Costernazione per la deplorevole provocazione che diffama una famiglia e stigmatizza un'intera comunità. E la Maggiorana Maddalena Oliva manda una lettera aperta alla signora Anna Biagini, la quale in realtà parla dalla pagina del Corriere di Bologna. La signora Biagini, doveva essere una cosa privata, dice, senza giornalisti né tutto questo clamore, no, con le telecamere. E tra l'altro mi domando, ma i poliziotti che erano al seguito non hanno impedito questa cosa? Ma comunque ci sarà modo anche di verificare questa roba. E il commento che arriva dal Corriere con Luciana Cavina è orgoglio pilastrino, perché tra l'altro si vuole far passare un Corriere pilastro come se fosse il Bronx, una sorta da fuga da New York, dove Salvini sarebbe né più né meno che Jena Plishkin. Ma allora la signora Biagini come viene definita dal giornale? La mamma coraggio che lotta contro i pusher, io con la pistola. Quindi non deve essere una cosa privata. I residenti sono con lei, e qui vedremo se è vero o non è vero. Secondo il giornale, altrimenti ci sarà qualcuno che vota pilastro, anche lei, che immagino. Qui al pilastro ci sentiamo abbandonati, nemmeno una stazione dei carabinieri. Buongiorno Alfredo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E su questa onda andiamo a cercare la pagina locale di Repubblica, dove il giorno dopo si parla appunto del pilastro che citofona a Salvini. Lui non ci rispetta e saremo tutti in corteo domani sera alle 18, appuntamento fuori dalla biblioteca Spina, una manifestazione spontanea voluta dai cittadini, istituzioni, associazioni, spiega Simone Borsari, presidente del quartiere, una maniera per dire che c'è un pilastro diverso ogni giorno che condivide lo sforzo riscatto da un passato difficile. E il caso lo sapete, c'è questa vecchietta, la signora Biagini, che ha segnalato a Salvini questo campanello da suonare, ha risposto un ragazzo di 16 anni e insomma c'è stata questa ingerenza bestiale nei confronti di questa famiglia, che ora si rivolge a un avvocato, a Chetti La Torre, per essere difeso. Dice cognomi e campanelli in diretta Facebook, gogna virtuale, ecco qui gli spacciatori, quello che dice Salvini, una famiglia intera alla berlina col minorenne compreso. A questo punto le cose saranno definita in tribunale. E c'è sempre nella pagina di Repubblica Caterina Giusberti, che è andata un po' a intervistare il padre, che fa il Corriere da Bartolini, e dice: denuncerò quella donna e anche l'ex ministro, ho avuto problemi in passato ma ora lavoro sodo. questa era l'altra questione. Sempre su Salvini c'è anche una questione di par condicio che volevo segnalare, è accaduto ieri sera durante una partita televisiva e durante l'intervallo c'è stata un'anteprima del programma successivo che era Bruno Vespa e in realtà c'è stato un monologo di Salvini che avrebbe dovuto comunque presentare l'anteprima del programma di Bruno Vespa e invece ha fatto campagna elettorale ancora una volta e anche qui c'è un'indagine della commissione parlamentare. Al pari della citofonata alla famiglia tunisina in quanto tale, quindi spacciatori, secondo la signora Biagini e secondo il Salvini, c'è la questione Bibiano che diventerà anche lì un fatto di cronaca più che deplorevole, ma come purtroppo ahimè ce ne sono tanti in Italia, è diventato un sistema in Emilia Romagna e quindi la trincea di Bibiano, dice la Repubblica di Bologna in apertura del suo giornale di oggi. L'altra cosa, naturalmente un altro endorsement che non sorprende, è quello di Sinisa Mihajlovic, notoriamente legato all'estrema destra, non da oggi. Mihajlovic pro Lega diventa un caso, divide i tifosi e scatena l'odio sul web. Polemiche dopo l'intervento dell'allenatore del Bologna, un simbolo doveva rimanere imparziale, questo dicono quelli che rimproverano la sua sortita. Bonaccini, il candidato al governatore di centrosinistra, Sinisa sostiene chi gli pare, e in questo c'ha ragione, l'unica cosa che gli auguro è di vincere la sua partita, quindi un certo signorilità che contrasta molto con il citofono di Salvini, direi. Allora il verso del giornale dice: il giornale Mihajlovic cita tifa il carroccio, sinistra shock, devi morire. Sui social messaggi che inneggiano alla leucemia. Questo è naturalmente andato a cercare il più imbecille tra i postatori di su Facebook o simili per metterlo poi sul giornale. E invece replica l'ex allenatore del Bologna Olivieri, che era di tutt'altra sponda, da sempre Olivieri si sa un democratico, e allora anche lui ha una posizione che la dice lunga anche sulla concezione di rapporti anche politici, giusto schierarsi ma sbaglia sponda, quindi dice la sua, ma non insulta nessuno. L'ex senatore Olivieri, da sempre a sinistra, ci voglio bene, lui lo sa, ma forse conosce poco le cose. E il personaggio descritto da Marco Marozzi, che appunto non da oggi, Sinisa Mihajlovic ha preso posizioni nette controcorrenti, così dice la didascalia, rispetto ai temi delicati ed avvenimenti come il conflitto nei Balcani, i suoi protagonisti molto sentiti dal tecnico serbo, quindi onore al tigre Arkan, privano le curve della Lazio al tempo, da Mladic ad Anna Frank, scivolate rivendicazioni di chi non cerca consensi. Sì, ancora su questo discorso non c'è da stupirsi delle idee politiche di Sinisa Mihajlovic, infatti poco dopo le sue dichiarazioni Berlusconi e Sinisa si abbracciano al Baglioni e dopo anche l'endorsement di Salvini al pilastro. Il leader di Forza Italia con Anna Maria Bernini ha incontrato i dirigenti locali. Dopo 70 anni alla sinistra in Emilia Romagna c'è voglia di cambiare, questa è la dichiarazione che ha fatto. Un'altra cosa, stasera a Bibiano arriva il leader della Lega e a 200 metri c'è pronta la protesta del movimento delle sardine e 200 agenti in mezzo per vigilare sulle due piazze, e vedremo un po' cosa succede. Se ne occupa la cronaca locale di Repubblica insieme a un'intervista a Luigi Giove della CGIL che abita a Bibiano. Il sindacalista residente dice: sui minori troppi sciacalli, il paese ha chiuso un solo omificio con 28 dipendenti, ma dov'era in quel momento la Lega? E qui chiudiamo il capitolo Lega, che se va avanti non è certo merito suo ma perde merito di chi dovrebbe essere argine, e allora apriamo la vicenda 5 stelle che si frantumano. Lo facciamo significativamente con Ligabue, polvere di stelle. Me. Hai mai conosciuto qualcheduno per davvero? Non è una scusa buona, non è una scusa e basta. Hai mai conosciuto qualcheduno che ti conosca? Vieni a vedermi in mano, se pensi che sia un bluff, ma c'è qualcosa ancora, giuro, sotto questa pelle. Non morirà nessuno, morire poi perché? Dicono che siamo tutti polvere di stelle. Ho bisogno di te, che hai bisogno di me, per cambiare il tuo mondo. Hai bisogno di me, che ho bisogno di te, per cambiare il mio mondo. È sempre a testo croce, è sempre a lotteria, però come si dice, ne vedremo delle belle. Non serve troppa luce per la nostra fotografia, ti ricordi o no che siamo polvere di stelle. Ho bisogno di te, che hai bisogno di me, per cambiare il tuo mondo. Hai bisogno di me, che ho bisogno di te, per cambiare il mio mondo. La luna è quasi piena, il sangue nelle vene, c'è un cerchio che si chiude. Ho bisogno di te, che hai bisogno di me, diamo senso ad un giorno. Coi tuoi trucchi senza inganni, poi le cose come stanno, eccoti, eccomi, eccoci. Ho i tuoi piedi ben piantati, e poi i sogni più agitati, muoviti, muovimi, muovici. Ho bisogno di te, che hai bisogno di me, per cambiare il tuo mondo. Hai bisogno di me, che ho bisogno di te, per cambiare il mio mondo. La luna è quasi piena, il sangue nelle vene, c'è un cerchio che si chiude. Ho bisogno di te, che hai bisogno di me, diamo senso ad un giorno. E con le polvere di stelle di Ligabue parliamo dei 5 stelle così fotografati dai vari titoli dei giornali, cominciando dal Messaggero per esempio, Di Maio lascia Mina nel governo, oppure se vogliamo il Gazzettino, Di Maio lascia il governo trema, oppure il Mattino, Di Maio l'addio al veleno, il Dubbio, Di Maio lascia 5 stelle al buio, oppure il Manifesto che parla di l'era glaciale, è il momento di rifondarsi, oggi si chiude un'era, slacciando la cravatta, quindi dando nella dimensione simbolica di uno che lascia il trono scomodo di capo di una banda di persone che naturalmente in questo momento si sparano addosso l'un con l'altra. Di Maio si dimette da capo politico dei 5 Stelle, lancia un duro jacuzzi ai nemici interni e si libera della cravatta. Lascia il movimento al minimo storico, in crisi di identità. Crimi reggenti fino agli stati generali di marzo. Questo è il tema che dà il Manifesto. Naturalmente giubilano, alzano bandiera di vittoria, giornali della destra. Si loggia il signor Nessuno, dice Libero, mentre il giornale Fine dei 5 Stelle. Di Maio lascia tra i veleni il Becchino e Crimi e il PD è già pronto a mangiarsi i grillini, Berlusconi a Bologna, da qui il cambiamento. Il Corriere della Sera, Di Maio lascia, accusa pugnalate, non è più il caso, non è più il capo politico dei 5 Stelle né il capo della delegazione del governo, e appunto Crimi è il traghettatore, e Crimi è un ritorno, perché Crimi era l'uomo del primo tempo della litigata con Bersani, se vogliamo ricordare, prima dei vari governi istituzionali o governi Renzi. Dal meetup al Viminale, l'ascesa di Crimi, il traghettatore scout, reggente 5 Stelle, ma avrà poteri decisivi. Lui cita sempre Baden Powell, state pronti, e quindi è un Boy Scout, per l'appunto. Baden Powell è il fondatore di Boy Scout, così ama dipingersi almeno. Epiteti di amici e di rivali, Lombardi lo chiama Orsacchiotto e chi lo critica su Radio Radicale gerarca minore, insomma anche chi lo vesteggia non è che sia poi il massimo. Comunque, E poi il Corriere ci parla di chi sono i primus inter pares, diceva Goffredo di Buglione, il primo tra nel direttorio. L'alternativa è Patuanelli, Dibba si scalda, sarebbe il turno di Dibba, che ha passato le ultime elezioni, adesso appunto sarebbe l'uomo del destino, arrivato quello che viene da lontano, il cincinnato che salva la baracca. Il ruolo di Grillo perplesso però da tempi e modi, parte il totonome sulla cessione di Di Maio, da Fico a Lombardi la richiesta arriva è quella di collegialità. C'è chi si smarca e dice no, non è colpa nostra di fronte alle accuse di Di Maio, il senatore Dessì, noi dissidenti non c'entriamo, Luigi così è più forte. Effettivamente questa cosa non favorisce la dissidenza nei 5 Stelle. Veniamo al Fatto Quotidiano. Di Maio attacca e lascia, il 5 Stelle o cambia o muore. Questo è lo spunto che arriva dalla prima pagina, e poi naturalmente il Fatto Quotidiano, che è molto vicino, sappiamo, ai 5 Stelle. Conte rassicura, ma per il PD si apre una fase tutta nuova, perché chi arriva a capo dei 5 Stelle? È chiaro che Di Battista le cose fanno più difficili col PD. Non ci sarà alcuna ripercussione, si rafforza l'asse tra governisti 5 Stelle e PD, in realtà questo è il commento di Vanda Marra, occhi puntati su Renzi e i guastatori di Italia Viva, che sta lì dietro all'angolo, pronto a balzare sulle carcasse degli avversari nella maggioranza. È un ossimoro, ma è questo, è un paradosso, ma questo è. Salvini comunque, secondo Gianluca Rosselli, ci rimane male, tutta colpa di Grillo, perché Salvini puntava su Di Maio per un possibile riaggancio col centro, coi giallo-verdi. I leghisti hanno a fondo il colpo sull'ex alleato Di Maio, ora dentro i 5 Stelle non abbiamo più interlocutore. Sì, questa fotonotizia campeggia su tutti i giornali, Di Maio che si toglie la cravatta da agente immobiliare. Segnalo in partenza La Stampa con quella Cassandra di Marcello Sorgi, che dice in un articolo di Catenaccio: Luigi Di Maio ha lasciato la guida del Movimento 5 Stelle e sta mettendo sotto accusa i pugnalatori, che ha ordito la congiura, che ha portato le sue dimissioni, i peggiori nemici che sono all'interno delle file grillini, e conclude questo articolo dicendo adesso il governo è più debole. La stessa notizia viene ripresa dal Resto del Carlino, e Michele Brambilla, anche lui nel suo Catenaccio, dice: stiamo dando troppa importanza a Luigi Di Maio, lo dico senza voler offendere la persona, anzi in un certo senso lo dico a sua difesa. E poi giù uno sproloquio per addosso ai grillini, che hanno perso potere, che hanno perso voti e preferenze, e non sarà certo il Boy Scout Crimi a risollevare le sorti, o un Patuanelli o un Di Battista, che possono far fronte al movimento e ai successi del 2013 e del 2018. Questo era Michele Brambilla. E ancora segnalo un altro articolo di fondo sempre su questo argomento dalle pagine di Repubblica, Stefano Folli, che dice: come un oscuro presagio, le dimissioni di Di Maio del suo incarico arrivano quasi alla vigilia delle elezioni dell'Emilia Romagna e della Calabria, un dettaglio abbastanza singolare, perché gli addii di solito si danno dopo una sconfitta e non prima, ma in questo caso la situazione del Movimento 5 Stelle appare compromessa e la disfatta è data per sicura, e quindi si è preferito giocare d'anticipo nella speranza che chissà di smuovere l'apatia dell'elettorato con una promessa di un generico e misterioso rinnovamento. Altro aspetto curioso, anche il PD ha annunciato che il partito nuovo prima del voto, ponendosi in scia con le sardine. La vicenda in sé non va sopravvalutata. Di Maio era da tempo che il leaderino dimezzato di un movimento di crisi drammatica, e gli stesso in stile Renzi si è lamentato delle pugnalate ricevute dai cosiddetti amici. Quello che interessa è capire fino in fondo il punto del governo. Conte è in grado adesso di resistere allo sfarinamento progressivo di un Movimento 5 Stelle che a meno di 2 anni fa ha raccolto circa il 33% dei voti e per il Parlamento, e oggi si sta sciogliendo come un iceberg all'equatore. A proposito di PD, leggiamo che Ruotolo, l'indipendente, riunisce il centro-sinistra suppletive a Napoli il 23 di febbraio. Per il 5 Stelle si candida un amico di Di Maio, che appunto si toglie la cravatta, ma certamente non è che vada in terza fila. Sta di fatto che su Ruotolo l'accordo PD dei magistri costringe Italia Viva a starci. per quanto brontolando, mentre il Gesso Pazzo, il centro sociale che poi anima potere al popolo, rompe col sindaco De Magistris, ovviamente viene da commentare. Ma su Di Maio, Norma Langeri dal Manifesto dice: non solo una crisi di leadership, più che per questioni di governo, dove anzi Di Maio ha avuto buon gioco nel rivendicare di aver centrato importanti risultati dal reddito di cittadinanza, la battaglia contro la corruzione, la casta, questo è il commento della Rangeri, o della Rangeri, il passo indietro trova le sue giustificazioni nel progressivo sfaldamento del consenso, perché la facile propaganda del Vaffa Day, trasformatosi nella rischiosa fase delle scelte di governo, ha riverberato sulla natura eterogenea ed anarchica delle origini, che dall'uno vale a uno, è passata la forzatura della cooptazione del ventenne di Pomigliano a capo assoluto, con un colpo di teatro Di Maio, il bravo ragazzo con la cravatta, se n'è liberato sciogliendo il nodo di fronte alle telecamere, il segnale del via libera a tutti. Questo è quanto. Ma sui 5 Stelle sentiamo allora il parere di cosa succederà ora con il giornalista Giuliano Santoro. Sentiamo le sue parole. Beh, intanto tutto sta a vedere non solo il se, perché ci sarà un annuncio clamoroso, sembra ormai ufficiale o sicuro, ma il come, perché Luigi Di Maio dovrebbe fare questo annuncio oggi pomeriggio, contestualmente alla nomina dei cosiddetti facilitatori regionali, responsabili regionali del movimento, che rimangono in carica insieme al capo politico, decadono insieme al capo politico, quindi sarebbe abbastanza singolare che li nominasse e decadessero contestualmente. Quindi quello che c'è da immaginare è che sarà un passo indietro, ma che lascerà una forma di reggenza o comunque quantomeno di gestione collettiva in cui Di Maio è meno esposto ma è ancora presente. Questo per dire che bisognerà capire la formula di questo passo indietro. Come si è arrivati a questo punto? A questo punto si è arrivati perché Di Maio, dal punto di vista delle questioni strategiche della politica del Movimento 5 Stelle, è stretto tra due opzioni, e lui, che è sempre stato molto abile quando si trova davanti a un bivio a imboccarlo senza dover scegliere, è stretto tra l'opzione più ostile ad una coalizione col centrosinistra, che tradizionalmente è rappresentata da Casaleggio, ma che di recente ha imbarcato anche Alessandro Di Battista, che ha espresso la sua solidarietà a Gianluigi Paragone quando è stato espulso dal Movimento 5 Stelle qualche settimana fa, e l'altra molto forte tra i parlamentari, che sconta forse la mancanza di una figura carismatica dal punto di vista comunicativo, ma che è molto forte tra i parlamentari, l'altra opzione, che è quella di scegliere definitivamente il campo del centro-sinistra e quindi decidere che quello è lo spazio naturale in cui si muove il Movimento 5 Stelle. Questa è la posizione che, come è noto, ha anche posato Beppe Grillo. Di Maio ha sempre cercato una terza via tra queste due opzioni di vari campi, cioè ha sempre detto: cerchiamo di essere l'ago della bilancia tra le due coalizioni, scegliere man mano dove pesiamo di più e dove contiamo di più, quindi una sorta di centrismo 2.0, e questa cosa qui evidentemente non regge più. D'altro canto, Di Maio sa pure che dentro il grande caos del Movimento 5 Stelle c'è bisogno di un leader che alla fine decide e che quindi si prende gli oneri e gli onori di prendere le decisioni e si prende anche delle responsabilità. Il Movimento 5 Stelle lo abbiamo conosciuto in questi anni come grandissimo mix tra spontaneismo e caos totale e verticismo esasperato. Se dovesse mancare uno di questi due elementi sarebbe un'altra cosa. Con Di Maio che fa un passo indietro, evidentemente non ci sarebbe nessun leader pronto a sostituirlo con le stesse caratteristiche, e quindi il Movimento 5 Stelle diventerebbe un'altra cosa. Bisogna anche capire se resisterebbe a una scelta del genere. Probabilmente Di Maio lo sa e quindi fa questo passo indietro che durerebbe poco più di un mese, fino a metà marzo, quando ci saranno a Torino gli stati generali del Movimento 5 Stelle, e lì potrebbe presentarsi peso sulle spalle dell'essere stato leader in questa fase e con la forza di dire: avete bisogno di me. Quindi insomma sarebbe un'uscita per poi rientrare dalla porta. È una delle ipotesi, è quello che al momento ci sembra di cogliere, dopodiché vedremo. È tutto in grande movimento, anche Giuseppe Conte ha un ruolo in questa storia, perché Giuseppe Conte ha interesse che il Movimento 5 Stelle non si spaldi, perché è la forza principale della sua maggioranza nonostante tutto, ed ha interesse forse anche però a diventare lui una figura di riferimento di un Movimento 5 Stelle più schierato con un centrosinistra e più ancorato alla maggioranza attuale. E questo dunque è il commento del giornalista Giuliano Santoro allo sfaldamento delle polvere di stelle, anche se 5, e invece passiamo al carceri e i temi dei invisibili. Per esempio, stupore, leggo dal manifesto, il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma per il protocollo d'intesa tra garante della regione Abruzzo Gianmarco Cifaldi, carcere di Rieti e università D'Annunzio di Chieti Pescara per una cooperazione, tutte cose virgolettate perché sono cose ufficiali, da realizzare in tema di osservazione scientifica della personalità dei detenuti sex offender. Seguendo il ragionamento del comunicato, dice Palma, la ricerca in cantiere avrebbe caratteristiche inaccettabili, quale la conduzione di test che comprendono registrazioni posturo-stabilometriche e termografiche, direzione e stimoli somministrati attraverso immagini significative ed emotivamente neutre. È esattamente l'arancia meccanica di Stanley Kubrick. E questo è il fascismo che avanza, anche istituzionale, con tanto di università che, come al tempo innominabile, si mettono al servizio della purezza della scienza con l'S davvero minuscola. E in realtà questa scienza luccicante un po' ariana stride moltissimo con la realtà delle questioni dietro le sbarre, per cui leggo sempre sul versante invisibili Gian Sandro Merli, e sempre dal manifesto, migrante morto nel CPR è un nuovo caso Cucchi, succede a Gradisca di Sonza, la denuncia dei radicali che accusano gli agenti, rimpatriati i quattro testimoni, perché come si fa per evitare che sia l'indagine, i testimoni li rimpatri subito, quindi dopo vali a pescare in giro per il mondo. Baktang e Nukitze, così si chiamava questo ragazzo, anzi questo signore, 38 anni ed era nato in Georgia, il rimpatrio era fissato per lunedì 13, ma non ci sarà nessun rimpatrio se non del corpo senza vita. È morto per le botte prese nel centro di detenzione. Gradisca di Sonza, radicale Maggi sul decesso di un georgiano, dice il Fatto Quotidiano, si rischia un altro caso Cucchi. La vicenda, 10 agenti l'hanno picchiato anche la nuca, ricovero e rientro, ed è stato definito un'agonia. Nel frattempo un tunisino al Pagliarelli, a Palermo, il detenuto portato in aula con i lividi, la corte IPM indagate per tortura, anche urina nel letto. Queste sono le questioni che si celano dietro le sbarre. Allora apriamo L'Avvenire, e che parlando più in generale della questione migranti dice cattiva accoglienza. Perché cattiva accoglienza? Bassetti, che è il capo dei vescovi in aula, dice che in aula del Senato i migranti sospesi tra la marginalità e l'irregolarità, quindi parlavamo di invisibili. La Morgese, il ministro dell'interno, integrazione decisa, basta con la liturgia dell'intolleranza. Questo è L'Avvenire, mentre il Fatto Quotidiano, il Dopo Matteo, il capo dei vescovi in Senato, parla di migranti col ministro dell'interno, il cardinale Bassetti, accogliere è sacro. Grazie. Questa notizia viene ripresa con una foto nelle pagine di cronaca, il migrante è morto, botte e ginocchiate da 10 agenti. Noi ne abbiamo trattato ieri con un'intervista radiofonica e la notizia ancora campeggia sui giornali, appunto. Riccardo Maggi, deputato dei radicali, la mette così: la morte di Vaknan e Nukidze al CPR di Gradisca di Isonzo rischia di essere un nuovo caso Cucchi, perché un uomo è entrato vivo in una struttura dello Stato e ne è uscito morto. La sintesi è brutale, ma è esattamente quello che è successo. Alcuni migranti che hanno assistito alla scena sono stati rimpatriati inizio settimana, già ricordava Alfredo, circostanza che ha allertato sia il deputato radicale e Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che segue il caso. Il CPR di Gradisca va chiuso, è una struttura opaca, sostiene. Il procuratore di Gorizia, Massimo Lai, assicura: abbiamo sentito quattro testimoni diretti prima del rimpatrio, solo un quinto era già stato espulso. Indaghiamo su tutte le fasi della vicenda, compresa la permanenza in carcere, dal primo confronto tra i resoconti, quelli raccolti da Maggi e quelli poi riferiti dal PM. Pare che emergano delle contraddizioni. Tutti i medici georgiano che era sottoposto a una terapia farmacologica sono stati acquisiti e sono al vaglio di filmati e delle telecamere. Veniamo al tema ambientale, che giovedì è sempre presente, anche perché approfittiamo dell'uscita dell'inserto del manifesto terrestre che appunto esce giovedì e quindi giù al nord. Di cosa si tratta questa volta? Le terre dei fuochi non sono solo nel centro-sud Italia. Nel ricco nord l'inquinamento industriale del sottosuolo è a livelli allarmanti e non da ora. Tra Lombardia, Piemonte e Veneto sono almeno 70 i casi di disastro ambientale, dagli scarichi velenosi, dalle fabbriche alle discariche tossiche mai bonificate. Un concentrato illegale spesso legato al traffico di rifiuti gestito dalle mafie. Il progetto La Terra di Sotto li ha documentati per rivelare una realtà che si preferisce non vedere, che poi l'extraterrestre il giovedì approfondisce nell'articolo, nella pagina 2. Ma invece noi ci vogliamo subito a pagina 4, perché c'è la lotta al clima pazzo, si fa in casa. La Unione Europea impone drastici tagli alle emissioni di CO2 degli appartamenti con fonti rinnovabili e centraline per le auto elettriche. In Italia la riconversione è difficile, i consumi energetici sono aumentati del 4%, quindi non è che l'allarme di cui ormai siamo coscienti, uomo avvisato, nessuno per niente salvato, perché non solo rimangono fermi ma aumentano. E quindi il 4% degli edifici sono poco efficienti, mentre 2,2 milioni sono in povertà energetica, quindi con problemi anche di riscaldamento, di riscaldarsi d'inverno. Questo è quello che arriva dall'extraterrestre. Mentre sulla salute in casa, questa volta sotto la voce non ambiente ma medicina e salute, il giornale ci parla di mai usare la carta stagnola se gli alimenti sono salati. E Daniela Uva che ci dà questo accorgimento: l'alluminio, le pellicole trasparenti, il polistirolo, usa e getto possono far prolificare i batteri in cucina, ecco come difendersi, dice. Leggete comunque le etichette che sono sui giornali, perché sui prodotti in vendita, perché dicono come comportarsi, ma a volte è difficile comportarsi correttamente perché la truffa sta a monte, come ci racconta l'inchiesta del Fatto Quotidiano. Ci sono antibiotici nel latte, il veleno degli allevamenti. Il test, tracce di farmaci in 12 prodotti su 21 analizzati, colpa dello sfruttamento intensivo delle mucche che si ammalano. L'allarme, l'uso di medicinali per le vacche in Italia è di 2,5 volte più alto della media europea. Anche qua devo dire che non siamo assolutamente così, maglia rosa ma maglia nera. A Padova, nel frattempo, a proposito di filiera alimentare truffaldina, peste suina, sequestrati 10 tonnellate di carne cinese, ma della Cina poi parleremo anche più avanti. Per il momento mi sposto in Sardegna, perché Settis dice la Costituzione tutela le coste sarde, e perché il disegno di legge della giunta Solinas per demolire il piano paesaggistico regionale non è praticabile. Vogliono cementificare ciò che rimane da cementificare in Sardegna, fare tutto della Sardegna una sorta di in costa dell'Aga Khan, insomma. Intervista lo storico dell'arte Settis: i piani paesaggistici regionali sono uno strumento di attuazione di una legge dello Stato, il codice urbani, che è uno strumento di attuazione dell'articolo 9 della Carta Costituzionale, quindi non si può mettere mano. Ma c'è curioso l'intreccio invece tra scioperi e mobilità alternativa, che arriva dalla mappamondo del Fatto Quotidiano, perché si va in Francia. Sappiamo che la Francia è attraversata da forti scioperi, in particolare del metro, che è chiuso da mesi, insomma, grandissime difficoltà per chi vive in metropoli come Parigi. E allora scioperi nel caos di Parigi, vince la linea verde di Hidalgo. Cosa succede? Riforma delle pensioni. La Francia vive oggi il 50° giorno di protesta contro il governo. Nella capitale bus e metro fermi, il sindaco vede trionfare le sue piste ciclabili. Meno male. E se il manifesto ha come inserto l'extraterrestre sui problemi di ambiente, tecnologia ed ecologia, Repubblica ha l'inserto scienza, ambiente e tecnologia, e appunto prima notizia che leggiamo si riferisce a questo inserto e riguarda l'inquinamento delle città. Non toglieteci il respiro. I divieti limitano alcune sostanze, ma il problema è drammatico e non ci resta che proteggerci. Ecco come. E ci sono una serie di consigli, almeno 8, a tutti abbastanza drammaticamente importanti, come l'uso delle mascherine tipo EPA, che rendono però la respirazione più difficile. Inutili invece sono le mascherine da chirurgo. In casa usare filtri per ripulire l'aria, o ventilatori che filtrano, aprire finestre lontano dalle ore di punta di notte o quelle ore centrali del giorno, fare sporsolo nei parchi lontano dal traffico, vivere ai piani alti protegge dal particolato ma non dagli altri gas inquinanti, occorre tenere i bambini quando si passa in passeggiata, sbagliato tenerli nel passeggino dove c'è un'altissima concentrazione di inquinanti, chi guida deve farlo possibilmente a bassa velocità per inquinare di meno con la propria auto ed evitare le brusche frenate e per non sollevare l'inquinamento dall'asfalto. A volte è meglio frenare però devo sì, dire che a volte è meglio frenare. Tutti i suggerimenti direi abbastanza banali e non tanto tecnologici. Di tecnologico c'è, ci sono dei nuovi sensori che in casa ci avvertono di smog e radon e che vengono installati in queste nuove centraline automatiche. Ti chiedo una cosa, io vedo un bagaglio pubblicizzato in TV che a ferro di cavallo ruota e pulisce l'aria in casa, ma questo cosa pulisce? Il fritto dell'aglio, qualche peto puzzolente oppure lo smog e la CO2? Pulisce molto genericamente, diciamo che è un aiuto a cambiare l'aria, è uno di quei ventilatori moderni Arme Magique, sì, di quella nota marca super potente che fa asciugacapelli piuttosto che aspirapolveri, non facciamo pubblicità ma non diciamo neanche come si chiami, non è neanche una cosa utilissima. Sempre continuando sull'ambiente, c'è anche i furbetti delle macchine che tolgono il filtro antiparticolato nella propria macchina a diesel per evitare appunto le repentine riprese del coso, e i blocchi del traffico, dicevo, che smussano i picchi di inquinamento ma non intaccano lo smog accumulato. Gli inquinanti li conosciamo, sono le polveri sottili, quelle inferiori a 2,5 parti di milione sono l'85%, quelli sopra alle 10 parti per milione sono il 50%, pericolosissimi sono due inquinanti come il biossido di azoto e il biossido di zolfo. Ma ancora notizie sull'economia passano dall'estero, da Davos, dove ci sono interviste appunto di Tonia Mastrobuoni. Le tasse ai giganti non sono un delitto ma una giustizia, il messaggio di Greta è giusto. In un'intervista a Tonia Mastrobuoni a David Sassoli dice: richiamo una responsabilità che dobbiamo sentire forte. E ancora da Davos ci arrivano notizie riprese sulla stampa, con gli investimenti verdi finisce la lunga austerity, adesso l'euro ha un futuro e Gentiloni si trova in una posizione ideale per favorire questa evoluzione. C'è un punto di Maurizio Tropeano che dice: l'Italia agricola e il Green Deal, ok bio e sicurezza ma male l'acqua. I punti di forza dell'Italia sono cibi più sani e più sicuri dell'Europa, il più attento agli sprechi e alle emissioni di gas serra, che negli ultimi 10 anni è riuscito a diminuire con l'utilizzo della chimica. Sul biologico siamo i primi in Europa per seminativi e colture permanenti, e le debolezze, cioè alcune lacune strutturali come la carenza della gestione delle acque, il consumo e l'erosione del suolo. Giovanni Mantovani, direttore generale di Verona Fiere, sintetizza così il rapporto di Nomisma, che ha analizzato le performance appunto top 5 europea per la tutela della biodiversità e delle aree boschive, ma rischia di pagare gli altri costi economici con interventi necessari, ad esempio per migliorare il rapporto sulle risorse idriche. I grandi a Davos, dice anche il Corriere con Giuliana Ferraino sulla web tax. Dopo lo scontro si parla di tregua, perché il peggior nemico dell'Europa, sappiamo, è Trump, la grande amico di Salvini. Gualtieri, soluzione globale o l'Italia andrà avanti? Von der Leyen da Bruxelles, una nuvola per i dati. E dunque questo è la tela di Lemaire, questo è Federico Fubini che dà l'analisi della diplomazia. L'Europa e il Trump sospendono il duello, insomma una tregua armata che penso che durerà quanto la tregua in Libia, cioè niente, questo è quanto. Ma a proposito di Trump, per dire che il personaggetto come direbbe De Luca in campagna. Luca Celada da Los Angeles ci parla del criminale di guerra, eroe del trumpismo. Chi è? Lui Edward Gallagher, delle forze speciali USA Navy, che ha ucciso civili afghani in Iraq, un prigioniero ISIS inerme, davvero un eroe, gli ha sparato quando era ammanettato. Il suo plotone lo denuncia, la Marina lo espelle, ma Trump lo grazia, lo invita alla Casa Bianca e licenzia il ministro della Marina. Questo è la piramide, il bello diventa buono, il buono diventa cattivo, il cattivo diventa buono. Ma allora, che cosa che unisce l'ambiente, l'antimilitarismo, la pace? Beh, dei vecchi inni. La nostra pagina sul lavoro purtroppo deve aprirsi ancora una volta in termini assolutamente tristissimi, perché leggo da Manifesto: morto sul lavoro in cava, sciopero nel Terzo Valico. Ieri 4 ore a Genova e ad Alessandria. L'ennesimo morto sul lavoro, il quarto in Piemonte dall'inizio dell'anno, fa scattare lo sciopero. Ieri i lavoratori coinvolti nei tanti cantieri del Terzo Valico sono fermati per 4 ore per l'appunto. La protesta scatta dopo la morte di Antonio De Falco, autista 52 anni, residente a Novi Ligure, rimasto ucciso mentre lavorava alla cava Clara e Buona di Alessandria, un deposito per lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle gallerie del Terzo Valico. L'uomo è rimasto schiacciato tra due camion che stavano facendo manovra. E ancora, i lavoratori che pagano il fio di sudare per portarsi a casa uno stipendio decente, o forse neanche quello. Gianmario Leone: esplosione la notte all'acciaieria 2, Mittal fa retromarci e riapre l'altra. Avevano appena fatto i dirigenti di Mittal Arcelor una canara per e contro la spegnimento del forno 2. Oggi Ilva, l'esplosione frenano Arcelor. Questo è l'incidente raccontato anche da Francesco Casula del Fatto Quotidiano. Le tre deflagrazioni dell'acciaieria 2, che avrebbe dovuto aumentare la produzione con lo stop dell'acciaieria 1 e la cassa integrazione di 250 operai, spingono l'azienda a prendere tempo. E la cassa integrazione guadagni è sospesa. 24 ore prima lo Stato ha deciso di fermare gli impianti. Sindacati, il gruppo ci ripensi. Sì, Alfredo, non c'è giorno in cui le cronache non riportano fatti relativi all'ex Ilva. Ieri c'era la causa a Milano tra la DI e le maestranze. Oggi appunto esplosioni e paura all'Ilva senza pace. Slitta fortunatamente lo spegnimento dell'alto forno 1. L'acciaieria 1 dello stabilimento ArcelorMittal resterà in funzione per almeno altre 2 settimane. Lo spegnimento dell'impianto, che era previsto per oggi, slitta di 15 giorni. La decisione della direzione è arrivata dopo l'incidente che si è verificato nella notte tra il 21 e il 22 gennaio ad uno dei convertitori dell'acciaieria 2. Intorno alle 4:30 di ieri sono state diverse le deflagrazioni dell'impianto IDF a servizio del convertitore. E ancora su Genova, il viadotto sulla 12 è un colabrodo, sorvegliato speciale a 90 anni e va rifatto. Da una parte un ponte a rischio chiusura in caso di forti piogge, dall'altro un viadotto ormai vecchio da rifare. L'ispettore del MIT Placido Migliorino, spedito in Liguria dalla ministra Paola De Micheli, ieri ha imposto una procedura speciale per mantenere aperto il traffico sul viadotto Vellino della A12 Genova-Livorno, interessato da una frana fin dal 2002. Una buona notizia sul lavoro: assume la segretaria precaria incinta, molto brava, e la ditta lo aspetterà, cade a Pisa. Davide Zaccaria è un imprenditore quarantenne con una ditta nata 10 anni fa che conta 8 dipendenti e si occupa di impianti di riscaldamento all'avanguardia in energie rinnovabili. E siamo a Bientina, in comune di 8.000 abitanti, in provincia di Pisa. Lavoratrici, lavoratori. Vicino a Casciana Terme, che una delle sue impiegate ha assunto un anno fa part time con un contratto a tempo determinato come segretaria, una precaria insomma. Qualche giorno fa, alla scadenza del suo contratto, marca mai poco più di un mese, Selene chiede un incontro al suo capo e, piena di preoccupazione, gli spiega di essere incinta e lui, anziché licenziarla, decide di assumerla a tempo indeterminato. Parliamo di autobus, trasporto pubblico, cominciando dal piano del PD da 25-30 milioni di euro in Regione Emilia-Romagna, descritto dal Carlino e con l'assessore Donini, che dice autobus e treni gratis per 600.000 studenti. L'assessore dei trasporti annuncia la svolta green, si parla da settembre per chi ha tra i 15, tra i 35 e i 19 anni, quindi sarebbe uno chiaramente disincentivare il trasporto privato. Parliamo anche, parlando di lavoro, della lavoratrice e lavoratori delle biglietterie TPR, che è andato vita ieri ad un presidio sotto la regione per accendere i riflettori sulle gare di appalto che la società dei trasporti sta facendo sul servizio, smembrandolo e rinnovandolo di anno in anno. Mosse che non danno prospettiva ai lavoratori, che creano anche altri problemi. Il nostro Gabriele Bianchi interpellato allora Gianni Cremonini proprio di USB, sentiamo le sue risposte. Le lavoratrici, i lavoratori delle biglietterie TPR, che sono per l'ennesima volta a gara in un appalto che ormai viene rinnovato di anno in anno, con i lavoratori sempre sotto gara, sotto proroga, sotto minaccia di perdere il lavoro, sotto minaccia di perdere il contratto, protestano e chiedono delle garanzie, delle certezze che non hanno da anni ormai mai. Di fronte a una gara che è stata svolta già 10 mesi fa, c'è un proroga da allora, la quinta proroga, oggi è arrivata la notizia della quinta proroga, fatta lottizzando anche il servizio, per cui 3 biglietterie sono state messe a gara con 2 gare diverse, con la prospettiva quindi di essere anche separati fra di loro, divisi e spezzettati, e con una situazione che adesso vede un ricorso al TAR dell'attuale gestore, a cui è stata annullata l'offerta presentata. Un'ulteriore proroga, perché poi è emersa anche un problema di conflitto di interessi nel modo in cui è stata gestita la gara da parte di TIPER, con il comune che nei giorni scorsi, di fronte all'ennesima protesta dei lavoratori, ha finalmente riconosciuto che forse reinternalizzare questo servizio e rimettere TIPER a capo di questa gestione direttamente è la soluzione che potrebbe sanare tutto, però appunto in un momento in cui però ci sono ricorsi in piedi, quindi tutto da verificare, e oggi siamo venuti sotto la regione perché la regione Regione, che è il socio di maggioranza di Tipper, al pari del Comune, pensiamo che debba seguire, verificare, accompagnare questo percorso a tutela di questo servizio e a tutela dei lavoratori che lo svolgono. Noi a questo punto abbiamo cercato di approfondire, ci siamo resi conto che c'è anche un conflitto di interessi abbastanza evidente nel modo in cui è stata fatta la gara, perché il responsabile del procedimento di gara è membro del consiglio di amministrazione, anzi presidente della direzione di ERM, che è una società di fatto etipera oggi, che controlla SETA di Modena, che è la società di trasporti di Modena, che è proprietaria al 40% di OLA, che è questo nuovo potenziale gestore che ha presentato anche lui offerta per una delle cose. C'è qualcosa che non va, è evidente che questa posizione è dubbia, e noi abbiamo fatto una richiesta alla Corte dei Conti, all'autorità per la libera concorrenza, per capire se è legittimo che ci sia come responsabile di un percorso di questo tipo una persona coinvolta direttamente nella società che poi presenta l'offerta. Lo stesso smembramento a noi sembra una scelta demenziale, nel senso che se lei si ammale ed è nella biglietteria della stazione, lei che lavora in quella di Marconi va in stazione a sostituirla. Se tu smembri questo servizio stai creando un costo aumentato, perché tu dovrai coprire come organico, o fai meno servizio o devi aggiungere dell'organico per coprire le assenze che prima gestivi attraverso la flessibilità che avevi personale. È una scelta assurda, è un'attività omogenea, fanno tutti lo stesso lavoro identico. Oggi l'interlocuzione ha più il senso di informare anche l'assessorato regionale, che in qualche modo già è stato contattato, ma vogliamo che venga seguita questa cosa, perché Tipper deve rendere conto di quello che sta facendo e dare coerenza anche a un progetto che nelle parole degli enti pubblici è tutela del lavoro, è tutela, benissimo, questa tutela la vogliamo vedere, perché non basta dirla. Ma oltre, diciamo, questi tentativi appunto di interlocuzione, sia oggi che nel futuro, avete già in programma, in mente qualcos'altro? C'è uno sciopero già proclamato per il 31, che è la data in cui scadrebbe la proroga, cadeva la proroga per la biglietteria Marconi, perché in realtà nelle intenzioni dell'azienda c'era respingere, annullare l'offerta presentata dall'attuale gestore, quindi dichiarare vincitore questa nuova azienda che si è presentata solo per via Marconi, e poi in prospettiva rifare la gara per le altre biglietterie. Quindi noi ci saremmo trovati che il 1° di febbraio c'era già di fatto uno smembramento del gruppo di lavoratori coinvolti, non si capisce chi sarebbe andato nella nuova società e chi no, con quali effetti, con quali garanzie anche sul posto e sul lavoro, perché già in previsione smembrandoli così la situazione non perde anche di quel minimo di garanzie che ci potevano essere. Una parte va in un'azienda, una parte rimane in quell'altra provvisoriamente in attesa di un'altra gara. A questo punto, dati i ricorsi che sono stati fatti, è arrivata una proroga al 31 marzo, la quinta proroga, cosa noi la seguiremo passo a passo ovviamente. I lavoratori rimangono in mobilitazione per forza finché non avremo delle certezze, perché per adesso abbiamo qualche promessa e molti dubbi. È per quello che siamo qua oggi, è per quello che è proclamato uno sciopero il 31, è per quello che aspetteremo cosa diranno sia il TAR rispetto alle offerte presentate, sia la Corte dei Conti barra rispetto alla legittimità del modo in cui è stata fatta questa gara. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Sì, 10:24 minuti primi, siamo alle battute finali di questa rassegna stampa su Radio Città Fujiko. Il problema di Tipper, il trasporto regionale, erogazione di servizi che sono pieni di buchi, e prepariamoci a degli scioperi a oltranza, ma questo è un argomento tabù nei confronti della pubblica amministrazione. Ma arriviamo a bomba alle notizie dall'estero e partiamo dalla Repubblica e dall'inviato in Cina, a Wuhan, la metropoli isolata del viaggio nel mercato del pesce, dove è cominciato il contagio mondiale. L'Unione Europea dice teniamo un impatto elevato, e in Italia allertati anche i medici di famiglia. E c'è questa cronaca di Filippo Santelli che ci dice che tutto quanto è nato nel mercato del pesce di Wuhan, dove è nato il virus, dice è una città in quarantena, un capannone da cui è iniziato il contagio, animali spariti, saracenesche abbassate, la Cina isoli la metropoli, chiusi aeroporti e stazioni, non partite e non venite, i morti sono già saliti a 17. E in un discorso tutto personale sulla possibilità di nuovi virus, secondo il mio parere, riguarda anche questi grossi centri antropizzati, e Wuhan è una delle città più popolose della Cina, dove i controlli sono meno efficaci, dove soprattutto l'inquinamento è molto più alto e dove sono più alte anche le malattie che riguardano l'apparato respiratorio e ovviamente i virus che hanno terreno fertile riescono a modificarsi e a resistere e diventare sempre più contagianti e sempre più infettivi. La tregua in Libia ovviamente, come tutti prevedevano, non ha retto, e leggo dal manifesto con Michele Giorgio: Libia, sei razzi di Haftar su Mitiga, due droni colpiti, il generale, i mercenari turco-siriani violano la tregua, Sarraj accusa Egitto ed Emirati, solita storia tra paesi in guerra che uno accusa quell'altro. Abbiamo invece in Brasile quello, il giornalista icona del giornalismo indipendente Greenwald, che svelò il complotto contro Lula per non farlo presentare alle elezioni, è stato denunciato dalla procura che ha fatto il complotto contro Lula, quindi il golpe continua senza soluzione di nessun tipo. In Libano il governo tecnico di Diab non placa le piazze, in Libano c'è una vera e propria rivoluzione, tutte le piazze sono piene delle varie categorie di cittadini che protestano contro la corruzione per uno Stato laico e multiraziale. Infine, notizie che forse deve aprire assolutamente il nostro linea stampa, succede in Burkina Faso. Immaginate voi se un killer fosse entrato in un mercato a Parigi, che so, all'Esal, avesse ucciso 36 malcapitati che passavano. Saremmo tutti in piazza con le lacrime agli occhi, giustamente. Ma molto meno giustamente mettiamo come notizia trafiletto in fondo alla sinistra, l'ho trovato solo sul manifesto a pagina 9, attacco jihadisti in Burkina, 36 morti. Si vede che in Africa i morti non contano. Nel giorno in cui il Parlamento di Ouagadougou votava per creare una forza di volontariato civile anti-jihadisti, previo addestramento militare di 2 settimane, e a 2 giorni dall'annuncio di nuove operazioni militari nella regione sahariana fatto a Bamako dal ministro della difesa francese Florence Parly, fonti governative del Burkina Faso hanno confermato l'ennesima strage, avvenuta stavolta nella provincia centro-occidentale di San Matenga. Un gruppo armato è entrato in azione nel mercato di Nagogo, uccidendo per l'appunto 36 persone, e sottolineo 36 persone, come riferiscono i media locali. L'attacco non è stato rivendicato, ma in Burkina Faso si assiste da alcuni mesi a un'escalation di attacchi jihadisti. Nell'ultimo avvenuto la scorsa settimana nella provincia di Soum sono morti 5 militari, e lo scorso 5 gennaio nella provincia di Skunru sono morte altre 14 persone, tra cui 7 studenti. Naturalmente immagino che molti ci ascoltano questi morti, sarà la prima volta che li sentono dire, ma è perché questo, appunto, abbiamo un'informazione che pensa che il mondo finisca alle colonne d'Ercole, forse anche un po' prima. Con questo noi ci congediamo con la rassegna stampa, ricevete domani a stessa ora, ciao a tutti. Buon ascolto con Angela Zocco e Andrea Gozza e il rock and roll.